nell'ombra scura, senza paura, cantate di passati, mai più scordati del nostro cuore. Canta la sola mia felicità di poterti amare per l'eternità. Canta, mia cara voce, le gioie immense che il tuo amore mi dà. Tu amor.